Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono semiglie che sono autorizzate dallo Stato in quanto hanno un livello di THC inferiore ai limiti di legge. È un prodotto a 360 gradi, dalle tisane alla cucina, al vaporizzarla appunto con degli appositi strumenti, al perché no, ci sono clienti che amano fumarla e nessuno può vietarglielo. C'ha funzioni mio rilassanti, c'è un antidolorifico naturale, non c'ha tutte le controindicazioni e tanti altri antidolorifici che stanno in commercio. È specifico per un tipo per i dolori mestruali, viene consigliato per svariate cose, diciamo, e ogni giorno scoprono cose nuove a riguardo, quindi non è ancora ben definito. Dovessi oggi scegliere che lavoro fare, come cambiare lavoro, metterei a produrre anch'io la marijuana legale, che poi un po' di marijuana c'è pochissimo principio che c'è esattamente la marijuana, però comunque forse quanto basta per dare un effetto rilassante. Beh, la notizia che abbiamo letto oggi sui giornali, ho qui davanti Repubblica, il boom della marijuana legale, un ordine ogni 30 secondi. Marijuana si chiama perché è quello, però il principio attivo dentro è bassissimo. Non vi aspettate, vi fate un cannone di quella, rimanete come state. Oppure quello vorrei capire questa mattina. Basta il nome, basta saperlo, basta l'idea. Noi abbiamo fatto giorni fa trasmissioni sull'omeopatia, cioè la gente guariva da tutti i mali prendendosi delle pilloline di zucchero e acqua fresca, dicendo: ah, guarda, rinuncia a un principio, medicina sana, naturale. Ben venga anche la marijuana che non fa male, la marijuana che non droga, la marijuana che non stravolge, una marijuana che non porta a nessuna parte, che però allo stesso tempo è un effetto rilassante. Quello che vorrei capire questa mattina, visto che un ordine ogni 30 secondi, veramente bisognerebbe cambiare categoria merceologica e mettersi a produrre soltanto questa, fare dei bei campetti e produrre la marijuana legale. Noi facemmo una trasmissione qualche tempo fa in cui chiedemmo agli ascoltatori se coltivassero gerani nel loro terrazzino. Gerani era una parola convenzionale per capirsi, e senza incorrere in rigore di legge, senza costringere i nostri ascoltatori poi a dover risponderne in termini di legge, per dire quelli che si coltivavano in realtà nel terrazzino, quella vera, quella con il principio attivo forte, quella che insomma si compra dai pusher ma in realtà si coltiva anche in casa. Oggi riprendiamo il filo di questo discorso perché capiamo che è un problema che non è chiuso. Per quanto si alzino steccati, per quanto sembra che l'indirizzo generale sia quello di considerare comunque anche il fumo, anche la marijuana, una droga tenere lontana dalle persone per una sorta di concetto di stato mamma che protegge i suoi cittadini, comunque mi sembra la gente stia organizzando. Ma oggi parliamo di un'altra sostanza, non è la sostanza che siete abituati a conoscere, a capire e che tanto vi fa compagnia nelle vostre rimpatriate con gli amici o anche nelle vostre serate solitarie. Si parla di un'altra cosa. Innanzitutto entriamo nello specifico di cosa stiamo parlando. Luca Marola, buongiorno. Sì, buongiorno anche gli ascoltatori. Luca Marola è una delle persone geniali che ha capito qual è il business del momento, è titolare del negozio Canapaio Ducale di Parma e ha inventato l'Easy Joint. L'ha inventata proprio lei l'Easy Joint? Sì, diciamo di sì. Ma partendo da quello che già in natura esiste, che già esisteva in Italia, insomma. Eh sì, però Luca, lei ha messo insieme un'idea fantastica. Cioè la chiama Easy Joint, così la gente ha l'idea che comunque si faccia qualcosa che è un po' sempre ai limiti, easy, però in effetti la potrebbe vendere anche a chiunque, perché non c'è niente di illegale in quello che lei produce e vende. Direi proprio di sì. Se no non staremmo qui a parlare, naturalmente. Beh, esatto. Ecco, ma dove si coltiva innanzitutto questa marijuana depotenziata? Il termine esatto, dire marijuana depotenziata? No, è leggermente sbagliato per questo motivo. Come allora, va chiamata? Allora, mi aiuti così? Sì. Allora, in Italia la coltivazione della canapa, quindi canapa diciamo industriale, canapa da fibra, era appunto una delle coltivazioni più importanti fino agli anni 50, poi è caduta in disuso e ora stiamo partecipando e assistendo appunto al boom delle coltivazioni di canapa industriale, quindi quello a basso contenuto di THC. Beh, la canapa l'elemento... con cui si fanno, non so, dei tessuti, questa qua. Esatto, carta, oppure i semi per l'alimentazione, le farine, i prodotti alimentari. A un certo punto è caduta in disuso, come la crusca, si dava alle galline, adesso la vendono esatto. in farmacia. Poi appunto, studiando, ovviamente non io, le proprietà, si dice nutraceutiche, quindi nutritive e anche farmacologiche dell'olio, del seme, della canapa, ricchi di omega 3, omega 6, così, ecco che c'è stata una nuova riscoperta della canapa, al punto tale che a gennaio di quest'anno è stata approvata, e questa è particolare, all'unanimità dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante, una nuova legge sulla canapa, molto più permissiva rispetto alla vecchia legge. Nella vecchia legge pensate che dopo i test, se durante un test il principio attivo superava lo 0,2%, arrivavano le ruspe, distruggevano il raccolto e l'agricoltore subiva anche un processo per produzione di stupefacenti. Adesso allo 0,6 si può arrivare. È tollerato in campo lo 0,6 e soprattutto si esclude la responsabilità penale, giustamente, per l'agricoltore. Ma perché potrebbe essere magari c'è una stagione più assolata, sale anche l'indice. Esattamente, vedo che anche sulle tecniche agronomiche. Vabbè, io sono figlio di agricoltori, però non coltivavamo la canapa. E questa è arrivata sulla scorta appunto del nuovo fenomeno di coltivazione di canapa a basso contenuto di THC. Prodotti questi, anche le infiorescenze, che in un certo senso già esistevano, esistono nelle erboristerie, nei negozi naturali, nei grow shop, però appunto sempre erano sempre un po' lì di lato, poco pubblicizzate, poco anche gradevoli al gusto, eccetera. E voi avete avuto la grande idea di marketing, questo è il problema, il problema, il successo. Fermiamoci un attimo, Luca Marola, devo dare la linea, poi riprendo con lei, ci spiega bene, perché trovo l'approccio molto interessante di ciò che veniva considerato come qualcosa tabuizzato nella società e quindi totalmente appetibile in quanto proibito. Ne avete creato la versione che non faccia male, con tutti però i presupposti che in realtà possa dare del benessere o far star meglio, quindi avete avuto un'idea di marketing secondo me fantastica. 800 24 00 24, usate voi la marijuana legale? L'acquistate, la comperate, vi fa bene? Attraverso quali sistemi ne fate uso? Ancora c'è una ritualità legata ad antichi usi e consumi, senza, è come quelli che si fumano il narghilè con le fettine di mela dentro, è la stessa cosa. A tra poco. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, stanno arrivando i primi messaggi. È come la birra analcolica, cosa la bevi a fare? Sì, infatti è vero, però evidentemente un motivo c'è, perché sennò la gente non l'acquisterebbe, un ordine ogni 30 secondi. Devo dire che potrebbe diventare la grande idea del momento, coltivarsi a casa la marijuana legale, come una volta la gente coltivava i lombrichi, cioè allevava i lombrichi e le lumache. C'erano questi venditori porta a porta, gli offriamo una coltivazione di lumache dentro casa, con tutte le tabelle, il business plan, quanto diventi ricco. Sai quanta gente si riempita la casa di lumache, di lombrichi, poi alla fine non sapeva che farci, anche troppi per andare a pesca. L'easy joint non è altro che il canapone, solo che la prima costa 2 euro al grammo, l'altra 60 centesimi. Davide, e Luca Marola, ricordo, titolare del negozio Canapaio Ducale di Parma, mediatore dell'easy joint. È vero, il canapone una volta si chiamava così? Beh no, esiste ancora, c'è una differenza sostanziale tra quello che abbiamo fatto noi e la nostra ricerca e l'altra, della seguente. Noi stiamo selezionando, cercando in tutta Italia coltivazioni di canapa le cui infiorescenze hanno delle caratteristiche molto diverse rispetto al canapone, che poi è, diciamo, il fiore errore di una coltivazione per la canapa industriale, per il tessile, per la fibra. Quindi stiamo cercando infiorescenze che abbiano delle caratteristiche diverse. Proprio cosa avete, diciamo, già delle sementi selezionate che, se piantate, danno quel tipo di canapa che serve a voi? In parte sì, ma comunque si acquistano nei consorzi agrari o delle varie associazioni come Federcanapa, ad esempio. Sono parecchie le famiglie, le varietà di canapa coltivabili in Italia, presenti appunto nella lista delle varietà coltivabili. Noi scegliamo e selezioniamo quelle che hanno appunto caratteristiche specifiche e speciali. Ma per assurdo, mi viene in mente adesso, visto a me interessa l'aspetto proprio, il divertimento e l'aspetto dell'idea, ma se un gruppo di famiglie volessero, avesse un pezzetto di terra e volessero coltivarla per voi, voi fareste questo tipo di lavoro? Cioè andate poi a raccogliervi, gli comprate. Stiamo già facendolo. Ah, ecco, mi stiamo spieghi come facendolo. Questo abbiamo me lo spieghi. Una mail apposta che la diamo insomma soltanto a chi è interessato a questo tipo di progetto, e lo stiamo già facendo. E poi facciamo anche, firmiamo anche dei contratti di opzione in maniera tale che anche i contadini, sia quelli che già coltivano canapa, sia quelli che vogliono iniziare, comunque si sentono tutelati, perché se si rispettano determinati parametri e caratteristiche dell'infiorescenza, cioè non si supera il limite legale di legge dal punto di vista anche organolettico, è quel prodotto lì, e dall'altra parte raggiunge determinati livelli di cannabidiolo, per dire, oppure i terpeni, insomma. Questo penso siate voi che lo garantite, perché innanzitutto è una cosa pubblica alla luce del sole. Sono dei laboratori comunque esterni, indipendenti, che fanno le analisi. Quindi in teoria che avesse un po' di terra coltivabile potrebbe avere l'idea che questo potrebbe essere un importante investimento. È molto difficile, molto complicata la coltivazione. Non ho sentito, scusi. La coltivazione, diciamo, è molto complicata, richiede particolari... No, la canapa intanto è una pianta infestante e comunque è una coltivazione tipica dei nostri territori, per cui ad esempio la prima, l'eletta campana, quella col CBD al 4% che abbiamo messo in commercio, quella essendo una varietà autoctona del centro sud Italia, non necessita nemmeno di fertilizzanti. Quindi è semplicissimo, da come dite voi è molto remunerativo. Mi dice esattamente, dietro quel titolo di Repubblica, un ordine ogni 30 secondi, quali sono in effetti il volume di richieste che avete? Allora, diciamo, per essere molto onesto, eccessivi rispetto alla struttura che avevamo costruito fino a quel momento, è per questo che la vendita online l'abbiamo sospesa fino almeno alla settimana prossima. Cioè vi è esploso in mano il business, però niente di meglio, uno non si potrebbe aspettare di meglio. Diciamo di sì, essendo anche un po' responsabile, e non essendo soltanto un progetto commerciale, ci è sembrato più onesto anche verso chi ci chiama, chi ordina, così, bloccare, evadere gli ordini, creare una struttura e poi rilanciare in un secondo momento. Si sono già aggregate parecchie persone, adesso sta diventando una cosa grossa, diciamo. Ecco, lei si è chiesto quale sia il successo però di questa cosa, perché alla fine è l'idea che tutto sommato si può fare un uso legale di una sostanza che comunque sia c'è un immaginario dietro, c'è un portato emotivo, c'è una socialità, è questo il fatto. Questo è uno dei punti importanti per cui è nato questo progetto, l'idea di normalizzare, cioè la canapa è una pianta e tutta quella propaganda vissuta in 40 anni che porta sicuramente alla morte, ad altre droghe così, è tutta una propaganda che non serve a nulla da una parte, e quindi il nostro piccolo contributo al processo parlamentare di legalizzazione che comunque sta andando come sta andando. Dall'altra parte ricordiamoci come fino a un mese fa, esattamente un mese fa, il fiore di canapa in Italia fosse considerato un prodotto senza alcun valore commerciale. Grazie ai bisogni che stiamo anche noi subendo queste conseguenze, ora il fiore, l'infiorescenza, ha un valore commerciale molto alto, è già stato triplicato il prezzo da parte dell'agricoltore, noi compriamo le cose a un prezzo triplo rispetto a 5 settimane fa, per dire. Ma è la stessa cosa, mi scusi, se io mi inventassi che posso raccogliere i papaveri da campo e farci un oppiaceo, avrei lo stesso successo. Light, certo, no, chiaro. No, anche lei non potrebbe fare la trasmissione, sarebbe da un'altra parte. Sì, sì. Comunque. Sì, ma però l'idea assomiglia a questo. Uno ricerca questo, però c'è un altro aspetto. Cioè, sì, l'aspetto però è questo, che durante la scrittura della legge sulla canapa industriale è accaduto che anche i portatori di interesse, quindi le federazioni degli agricoltori, rinunciassero, noi siamo un progetto borderline, quindi oggi ci siamo, domani non so, rinunciassero agli aspetti, al fiore, all'infiorescenza, che quindi non è mai citata in nessuna legge, quindi non si può commercializzare, forse, perché non è scritto da nessuna parte, e d'altra parte però forse si può commercializzare, è in un limbo. Noi l'abbiamo fatto uscire apposta questo progetto per far vedere alle federazioni degli agricoltori e agli agricoltori che anche il fiore ha un valore commerciale, gliel'abbiamo dimostrato, perché vogliamo che entro metà luglio, quando dovranno essere scritti i decreti attuativi della legge sulla canapa industriale, queste associazioni ritornino al tavolo e impongano anche la le norme sull'infiorescenza. Era una parte veniva considerata come l'erba da campo, secondo loro non aveva nessun valore. Ma io ho fatto prima l'esempio della crusca, io mai avrei detto da bambino che quella roba che serviva per fare il pastone per le galline sarebbe stata venduta a peso d'oro in dei sacchetti carini con i fiocchetti nelle farmacie, eppure oggi è così. Sentiamo Federico, buongiorno. Buongiorno, salve. L'ascolto. Io apprezzo molto l'idea che sta alla base di questo progetto. L'unica cosa che mi lascia un po' basito è nemmeno la qualità, ma come si presenta il prodotto. Pieno di semi e possiamo dire infumabile quasi. Perché lei vuole fumarselo naturalmente. Sì, perché comunque apprezzo l'idea e il fatto che possa comunque contenere, seppur in mancanza della sostanza psicoattiva, la parte bella magari di fumare in compagnia. Lei ha colto in pieno, secondo me, quella che è l'idea generale. Lei poi dice ci sono difficoltà a fumarla. Marola, perché dice questo signore che c'è difficoltà a fumarla? Ragionato, lo ringrazio per i complimenti. Sì, effettivamente è così, perché i primi due lotti messi in commercio sono varietà dichiarate con dentro anche i semi. Questo è accaduto per due motivi. Uno, siamo partiti con il prodotto già esistente, già coltivato e finito, in Italia, ed era quello con i semi. Abbiamo scelto le migliori varietà, abbiamo scelto quelle con i cannabinoidi legali più alti o quelli con i terpeni, quindi i sapori, gli aromi, gli odori migliori, però effettivamente hanno i semi. Il secondo motivo, invece, è che, visto che siamo usciti in maniera così dirompente, volevamo dare la possibilità, immettendola quindi in società, nel mercato, eccetera, anche alle forze dell'ordine, di riuscire a distinguere anche soltanto la lista. Se no è uguale al fumo, al fumo. La marijuana che si compra illegalmente per le strade, semi non ne hanno. Quindi la nostra roba si vede già la lista, e quindi anche per non far passare dei guai stupidi, seppur momentanei, a chi la compra. Fra qualche settimana, perché adesso soprattutto al sud hanno già raccolto le infiorescenze, noi metteremo in commercio apposta anche una varietà senza semi. Quindi il nostro ascoltatore, che aveva 19 anni, naturalmente dice, però ha colto in pieno quell'aspetto. Noi possiamo ripetere l'aspetto rituale, socializzazione, cioè farci il cannone in gruppo, sentire la musica, con una cosa che però non ci fa male, non ci dà effetto, ma a noi ci piace lo stesso. Questo è il senso. Se togliete i semi, ce la fumiamo anche meglio, così non c'è proprio problema. Fermiamoci un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Melog, cronache meridiane. 800240024, continuano a scrivermi gli ascoltatori. Non riesco a capire che senso ha fumare una canna, non ti dà nessun effetto, non lo puoi spiegare. Che effetto ha? Che senso ha bere la birra analcolica, come abbiamo detto poco fa? Al senso comunque rimane l'aspetto rituale e l'aspetto sociale. Proprio prima sentiamo Davide, poi sentiamo gli inventori di Easy Joint, questa idea che mette insieme appunto qualcosa che rimane nella memoria collettiva come atto di trasgressione, atto di socializzazione, atto di riflessione, atto di uscita dal mondo, tutte attività che comunque molte volte sono affidate a sostanze proibite. In questo caso puoi avere perlomeno lo stesso effetto, che quasi un effetto placebo, con una sostanza che in realtà non è proibita, perché non ha la percentuale di principio attivo che la legge prescrive che non debba avere la canapa. Hanno inventato Easy Joint e sta andando, è un affare favoloso perché tutti lo vogliono. Sentiamo Davide, buongiorno. Buongiorno dottore Coletti, buongiorno. Niente, io volevo solo sottolineare un aspetto, che il discorso dell'inventore di Easy Joint, è bellissimo, nel senso antidolorifico, ricco di omega 3. Il problema però è che, come il comunismo, è bello sulla carta, perché poi tutti gli ordini, o il 99,9% degli ordini che vengono fatti da ragazzini che vogliono stonarsi. Quando si renderanno conto che la stonatura non c'è, io non so se continueranno a comprarla, perché se va anche va a leggere i commenti, nessuno la usa per mangiare, nessuno la usa per chiaro, questo tutti mi sembra per fumarla, tutti, dunque il castello secondo me si sbriciola. Vabbè, se non gli facesse male, tutto sommato si divertissero lo stesso, è come quando le bambine giocano a fare la cucina con le formine di fango, la stessa cosa, e si fumano questa che non gli fa male come se fumassero il tè verde, alla fine se si divertono senza farsi del male, tutto sommato non è male. Ma sentiamo, dunque, io assieme a Luca Marola ho Leonardo Brunzini, che è l'agronomo, che è quello che ha ideato proprio l'Easy Joint. Però risentiamo un attimo Marola, forse più adatto lei per rispondere a questa cosa. Mi sembra di aver capito che lei ha una possibilità di profilare in qualche maniera il suo pubblico, è un pubblico più variegato che solo il ragazzino se la vuole fumare, o è come dice il nostro ascoltatore? No, appunto, il pubblico diciamo che ha aspettative differenti, età differenti, storie diverse. E i primi articoli usciti già nel titolo dicevano la cannabis che non sballa, per cui effettivamente la motivazione cerco lo sballo è una motivazione diciamo molto molto molto piccola, molto poco utilizzata. Sono tutt'altro che scemi i ragazzini che cercano la roba. Il paragone tra la birra non alcolica e la birra, io non la farei così, lo farei tra la birra non alcolica e l'acqua piuttosto. Ecco, ancora meno. Okay? Sì. Sì, è questo, uno che vuole dell'acqua saporita. Qua è la stessa cosa, non si fa il paragone tra la marijuana che con il THC alto così e Easy Joint o la cannabis light. Si fa con altre cose. Una cosa che mi ha molto colpito, e sono tanti che ci scrivono, persone diciamo dai 50 anni in su, che non riescono ad avvicinarsi alla marijuana illegale di oggi con quelle alte concentrazioni di principi attivi di THC, e perché abituati alla cannabis che circolava in Italia negli anni 80 con un livello di THC molto basso, e questi ci ringraziano dicendo: a me piace il sapore, il gusto, non potevo usare la marijuana illegale perché è troppo forte per noi, per me, e invece uso i Easy Joint perché almeno il gusto e il sapore c'è, e poi c'è quel leggero senso di rilassatezza che appunto gli altri principi attivi legali della cannabis danno. Questa ad esempio è una categoria sociale che non avevo preventivato, diciamo. Cioè i vecchi fricchettoni che oggi hanno 60 anni, 70 anni, che non si possono più comprare il fumo di oggi perché li stenderebbe rispetto a quello che si fumavano loro al tempo dei figli dei fiori, con questa stanno bene, gli fa bene, gli dà anche una memoria nostalgica dei bei tempi che furono, e non stanno male. Esattamente. Ah, perfetto. Sentiamo Rosalba. Rosalba, buongiorno. Rosalba, eccola. Vabbè, Rosalba chiama e non risponde. Ecco Rosalba, sì. Poi svegliatevi, quando vi chiama al telefono rispondete. Eccola, dai. Pronto? Sì, l'ascolto. Molto poco, molto basso. Beh, lei parli, c'è bisogno che sente. Ah, non importa. Perfetto. Senti, siccome ho sentito questa trasmissione, mi è saltata l'idea di dire, se è possibile, siccome sono volontaria alla Cascina Dunguanella, che insegna ai ragazzi a coltivare tutto, hanno spazio grandissimo, chissà se si può dire al direttore responsabile se può informarsi per questa coltivazione o se è meglio di no, essendo una comunità. Cosa ne pensi? Rosalba, lei vuole andare dal prete che dirige il Don Guanella e dire: padre, da oggi coltiviamo marijuana, così vuol dirgli. Sì. No, perché ho sentito che non fa male. È diventato è una qualità normale poi da smerciare. Sì, non è una droga. C'è il nome, è come dire quelli che non possono nominare nemmeno la passera in quanto moglie del passero perché richiama cose proibite. Qua si chiama marijuana, ma non fa quello che fa la marijuana, è l'equivalente esattamente. Certo. Luca Marola, risponda alla pia donna che vorrebbe chiedere al sacerdote il Don Guanella se possono coltivare anche loro bambini. Ma sì, ripeto, c'è già una filiera della canapa industriale in Italia, anche molto attiva e ben distribuita oltretutto in tutta Italia. Anche istituti religiosi? Ma questo non lo so, per ora non credo, però sarebbe interessante. Come la storia dimostra, essere i primi non è mica male, no? Sarebbe interessante, perché se cade il pregiudizio sulla parola, sul termine. In California c'è anche un gruppo di suore che coltiva marijuana, quella col THC alto, a scopo terapeutico, e poi la rivende ai dispensari. Ci sono parecchi servizi, anche cercandola su Google. Le sorelle del Pio Sballo. Sì, sì. Sentiamo, andiamo avanti. No, è caduto. Sentiamo adesso Leonardo Brunzini, che è il socio e il collega di Luca Marola, che è un agronomo e quindi più legato all'aspetto della coltivazione. La domanda della signora, che non mi sembra peregrina, mi sembra colto subito il senso, dice: magari noi teniamo i nostri ragazzi. Io stesso mi ponevo il problema dei ragazzi autistici, che molte volte dei quali mi sento responsabile, li mettiamo a coltivare l'orto. Ma se mettessimo anche tutte queste coltivazioni, diciamo, di agricoltura sociale a fine di riabilitazione e inserimento di persone con difficoltà, invece che coltivare magari zucchine o pomodori, non sarebbe più conveniente mettersi a coltivare questo tipo di sostanza? Avrebbe un mercato, secondo lei, al momento perlomeno più interessante? Sì, sicuramente più interessante a livello economico, più semplice a livello agronomico e perfettamente legale. Infatti la legge 242 varata a gennaio di quest'anno dà la possibilità a chiunque di coltivare questo tipo di pianta, purché si acquisti del seme certificato, quindi con il cartellino, e si mantenga il cartellino e la fattura d'acquisto per un arco di 12 mesi. Quindi lei potrebbe suggerire anche un'idea socialmente utile, socialmente spendibile. Cosa serve? Vediamo il kit fondamentale, se uno volesse mettersi a produrre questa sostanza con un minimo di ritorno economico. Quanto è la metratura di terreno minima necessaria? Ma l'appezzamento di terreno minimo, diciamo, è paragonabile ad un orto. Non serve praticamente nessun tipo di attrezzatura specifica, perché una volta preparato il terreno finemente, come va fatto per qualsiasi tipo di coltivazione, sì, cioè si zappa un po' e si frantuma la terra. Diciamo, si deve zappare profondamente, meglio ecco, una doppia vangata se uno lo fa a mano, oppure una ratura profonda, un aratrino che ci passa, ecco, o una ripuntatura per superfici più grandi. Poi il terreno va sfinato finemente, quindi viene preparato quello che si chiama il letto di semina, con che sia molto fine e molto profondo. Questo, diciamo, agronomicamente è il trucco per un buon successo. Che periodo si semina? Si semina nelle mie zone, io sono marchigiano, si semina tra marzo e aprile, quando il terreno lo permette, cioè quando in tempra, diciamo, si sta asciugando dalle piogge invernali. Al sud molto prima, c'è chi semina anche a gennaio. Diciamo, come si esce dal freddo? E si raccoglie invece quando si raccoglie? Anche lì dipende molto e dalla scelta varietale e dal clima. Già per esempio nel sud si sta già raccogliendo del fiore ormai da un paio di settimane, e man mano che si sale a nord si arriva al massimo alla raccolta a ottobre. Sentiamo Patrizio. Patrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Interessante l'illustrazione dell'agronomo. No, volevo sapere... Ma lei è interessato a piantarsela a casa sua? Ma chissà, può darsi. No, volevo sapere riguardo i semi, quelli da collezione, tra virgolette, ecco. Se Easy Joint smercia anche questi semi oppure no. Cioè, da collezione, che sarebbe? Quelli che poi fanno la marijuana vera, questo, tanto per capire. Sono vendibili in Italia legalmente, però ecco, non so ora come è messa la legge... E se Easy Joint smercia anche questi tipi di semi? Vediamo se Brunzini sa risponderci. Smercia. I semi da collezione, mi illumini, perché è una materia che non sono molto ferrato. Che vuol dire? Quelli sono semi appunto da collezione, quindi... Non vanno seminati. È possibile acquistarli legalmente solo se rimangono nelle confezioni originali e quindi si tengono per collezione. Non sono semi che possono essere seminati legalmente. Ma sono collezionisti di semi di marijuana? Non sapevo. Sì, ce ne sono molti. E se li scambiano, ce lo manca, così? Credo di sì, non sono un collezionista di questi. Sì, però è un escamotage, uno se li compra, poi è chiaro che buca la bustina, un po' se ne semina. No, perché mi sembra ridicolo che uno venda i semi da sua collezione. Mai sentito? È l'unico modo per in Italia vendere un escamotage. E commerciare, diciamo, semi. Io me li compro, ci metto dentro dei semini di che ne so, di rosmarino, e poi con quegli altri me li coltivo. Fermiamoci un attimo, mi sembra che è un mondo inesplorato ma interessante. A tra poco. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, stiamo parlando di un fatto molto interessante, cioè di mezzo un fenomeno sociale. Stanno tutti acquistando la marijuana a bassissimo contenuto di principio attivo, che viene usata come rilassante. Coltivarla sta diventando un bell'affare. Negli orticelli degli Umarell, invece coltivare le carote, converrebbe coltivare questo tipo di sostanza. Esiste tutta una popolazione che in realtà è in procinto di ricostruire il rituale della fumata collettiva solitaria con una sostanza che in realtà non fa male. Antonio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, saluto anche il suo ospite. Io volevo portarle un esempio di come penso si possa utilizzare la canapa per prodotti, diciamo così, più umani. E io perché questi non sono umani? Questi non sono umani. No, io intendevo dire in maniera più senza questo farlocco di la marijuana, senza per quello si vende. Se lei dice serve per oliare le rotelle delle motoseghe, non se la compra nessuno. No, perché io le volevo porre questo, le volevo dire questo, e poi volevo girare anche una riflessione al suo ospite. Io abito in una zona vicino a Bussi Officine, in provincia di Pescara, che lei conosce a me, sicuramente conoscerà come una zona disastrata, perché lì è stata scoperta la discarica dei veleni prodotti da un'azienda che lavorava la chimica. Bene, alcuni anni fa ci fu un convegno, non a Bussi ma a Sulmona, dove un agronomo illustrò invece come, invece di reindustrializzare quella zona con prodotti ancora altamente impattanti, si sarebbe potuto fare una coltivazione, non so se si possa dire o meno, ma intensiva di canapa per prodotti naturali, tipo per la maglieria, per queste cose qua. Ovviamente quel progetto poi è caduto nel nulla, perché in queste zone interessa ancora avere la fabbrica come mito. Ecco, io volevo che il suo ospite, se ci può spiegare se fosse possibile un progetto del genere. La allora, ringrazio, l'ascolto per radio. Leonardo Brunzini, che è diciamo l'agronomo forse più adatto a spiegare questo problema. Secondo lei quello che dice il nostro ascoltatore è possibile, invece che la canapa che era nel primo progetto, fare questo tipo di canapa, di questo tipo di sostanza, cominciare a lavorarci? Allora, non solo è possibile, ma è già in atto. La canapa ha come caratteristica, una delle caratteristiche, è proprio quella di essere una spugna per i metalli pesanti del terreno. Quindi viene utilizzata proprio per purificare il terreno da questi inquinanti. Lo si sta facendo, per esempio, intorno ai terreni, intorno all'Ilva di Taranto, dove appunto il grosso inquinamento da diossina viene recuperato e assorbito dalla canapa. L'investimento su una piantagione di canapa per quanto riguarda il discorso tessuti, ora come ora in Italia è un po' prematuro, perché poi non c'è in atto la filiera di trasformazione per la fibra da tessuti, ma ci si sta arrivando, perché molte associazioni o molte aziende stanno partendo con questi investimenti. Sicuramente è la miglior pianta per l'approvvigionamento di cellulosa, quindi anche in quel caso un investimento su un impianto intensivo di canapa è ottimo per andare a sostituire o integrare quelle che sono le fonti primarie di cellulosa, ovvero sia le foreste. Immaginiamo che un ettaro di canapa produce 4 volte in cellulosa quello che produce un ettaro di pioppo. La canapa cresce in... Ma lei ha un rapporto, diciamo, su quello che può essere... Me lo stanno chiedendo molti. Mi scrive un signore: ho mezz'ettaro di terra, posso mettermi a coltivare, quanto ci farei? Ecco, a questa risposta brutale potrebbe rispondere: quanto ci farebbe un signore con un mezz'ettaro da coltivare a canapa? Allora, dipende poi dal prodotto che va a vendere. Quello vostro, quello che chiedete voi. Proprio... Quello che chiediamo noi, il rendimento è molto alto, logicamente anche il lavoro. Lavoro inteso in ore di manodopera, perché per ottenere il nostro prodotto, tranne la semina, tutto il resto sono operazioni manuali, non meccanizzabili. Ma avrete una stima più o meno di quanto c'è per offrire, diciamo, se voleste fare una sorta di franchising, se il signore ci ha chiamato col suo mezz'ettaro, gli si può dare una risposta, che chiaro non in termini di precisione assoluta. Al metro quadro, Al metro quadro. Al metro quadro, che è ancora più interessante, perché una, diciamo, una coltivazione ben fatta di canapa sativa legale, io parlo sempre delle 32 varietà possibili coltivabili ora legalmente in Italia, può produrre, se ben coltivata, all'incirca 200-300 grammi di prodotto finito. Può arrivare anche a un chilo in casi estremi, però teniamoci bassi. Ora come ora il valore dell'infiorescenza ben portata si aggira intorno alle 100 euro al chilo, quindi poi lavorerebbe un anno. Un metro quadro può produrre dalle 20 alle 30 euro, moltiplichi per un ettaro e viene fuori un valore che nessun tipo di vegetale coltivato attualmente raggiunge, ma neanche sfiora. Quindi con un ettaro, faccio un rapido calcolo, quanto farebbe con un ettaro? Un ettaro sono 10.000 metri quadrati, quindi siamo nell'ordine delle 200.000 euro. Non esiste, ma nemmeno se uno coltivasse, cioè varrebbe la pena di lavorarci. Cioè uno... Sì, ma infatti è proprio per questo che stiamo dando una grossa spinta anche all'agricoltura. Cioè guadagna perché... più di un professionista, scusi, quanto ci dovrà lavorare in un anno in un cappetto di un ettaro? Quante ore di media? Perché poi l'inverno non fa niente, sta davanti al fuoco. Diciamo che ci sono delle punte di lavorazione dove c'è bisogno di un gran numero di operai, quindi di manodopera concentrata in determinati momenti. Sì, ma la maggior parte del tempo se ne sta a guardare che crescano, quindi tutto sommato sarebbe una bella operazione. Beh, siamo partiti nel parlare di qualcosa di terribile e indicibile come la droga, siamo arrivati a un bel business, una bella attività che forse potrebbe anche aiutare molte economie familiari. Alla prossima!